L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale andremo alla scoperta di un bioparco, non tanto di cosa c'è in questo bioparco ma del perché è nato, del che senso ha avere dei bioparchi, di come funzionano, di come ci confrontiamo noi come italiani con gli animali. Il bioparco che abbiamo visitato è lo Zoom Torino, l'ultimo nato nella assai ristretta galassia dei bioparchi italiani. Si trova in realtà non a Torino, ma a Cumiana, una ventina di chilometri dal capoluogo piemontese. A metà di aprile ha aperto l'ultimo habitat allestito per i suoi ospiti animali, che è il Serengeti, ed è il terzo ampliamento questo dopo le aree Sumatra e Madagascar. Il Serengeti, come gli altri, è un habitat multispecie dove convivono differenti specie animali in un unico ambiente ed è visitabile a piedi. E queste sono due caratteristiche del bioparco: la convivenza tra specie diverse e la visita a piedi. Anzi, magari anche una visita a nuoto, visto che c'è una piscina che è confinante tramite un vetro con l'area dei pinguini, e quindi si può avere un'esperienza di nuoto accanto ai pinguini, una cosa davvero insolita. Del resto quest'area, un tempo paludosa, nacque proprio per essere un'area di svago, un'area di relax per il fine settimana, per i torinesi, per coloro che non avevano magari la possibilità di fare molta strada nel weekend per distrarsi. Ci racconta però tutto Giuseppe Casetta, che è presidente onorario di Zoom Torino. È lui che sentiremo parlare per primo, poi interverrà il figlio Gianluigi Casetta, che è l'amministratore delegato del parco, e infine anche Valentina Isaia, biologa e responsabile del reparto educazione e gestione dei progetti di conservazione. Io ho 22 anni, avevo due segretarie che a lunedì curiosamente le dicevo: cosa hai fatto ieri Maria? Sono andato a Spotorno. Lei cosa faceva? Io commerciavo nell'olio, okay. Avevo 3.000 candida olio e avevo una bella aziendina. A un certo punto, lunedì dopo: Teresa, cosa hai fatto? Sono andato a Spotorno. Ma cosa c'è a Spotorno? Il miele? Fai, no, c'è il mare. Io non sapevo neanche dove era Spotorno, perché io ero abituato a lavorare 20 ore al giorno e fare festa Natale, Capodanno e Pasqua. Allora a un certo punto, ma quanto ci mettete a costa 500? 8 ore andare, ma 8 ore a ritornare, sono 16 ore, la giornata è di 24 ore. E quanto spendete? Ma spendiamo tot, ma questo è lo stipendio di mezza settimana. Allora ho detto: appena trovo un pezzo di terreno alle porte di Torino che sia un'area abbastanza grande, voglio creare il ritrovo della famiglia. Qui, queste cascine qui attorno erano tutti i miei clienti, e questa terra era abbandonata, era una discarica a cielo aperto. Mi sono informato di chi era il titolare, era uno di Luserna, l'ho comprata e sono partito per fare il ritrovo della famiglia. Io ho cominciato a fare i laghi, fare le bonifiche, e poi ho messo qualche animale, ho cominciato come laghi baite. E allora venivano un mondo di gente. Poi è arrivato mio figlio e ha pensato di fare il bioparco. E allora non si poteva più chiamare laghi baite, e l'abbiamo chiamato Zoom. Io adesso faccio il manovale e lui fa il progettista e va avanti. Andiamo avanti. I primi animali quando sono arrivati? I primi animali sono arrivati 40 anni fa. Sono arrivati i cavalli, gli asinelli, le caprette, due leoni, due tigri. Noi non ci saremmo più, una sola razza. Il parco, bioparco, l'ha fatto la famiglia Casetta, non l'ha fatto nella regione, nella provincia, nello Stato. E non da dimenticare che questa zona ormai era adibita a una grossa discarica. Perciò adesso c'è un bioparco. Se non arrivava la famiglia Casetta, qui oggi era la più bella discarica del Pinerolese. Lei ha toccato prima questo tasto in parte dicendo appunto: questa l'abbiamo fatta noi con la nostra famiglia, non l'ha fatta la provincia, non l'ha fatto lo Stato. Non l'ha fatta la regione. Mentre prima dicevamo ci sono delle sovvenzioni nessuno altrove. Non ci ha dato niente, questa è una vergogna. Vi hanno posto dei limiti? No, da questo punto di vista diciamo che siamo fortunati che il comune di Cumiana non si è mai opposto, diciamo, all'iniziativa. Ovviamente abbiamo seguito tutto per quanto riguarda il piano regolatore, eccetera, a livello normale, quindi nella legalità, però si poteva trovare anche un comune che per qualche motivo fosse contrario a queste cose, sarebbe diventato praticamente impossibile, diciamo, realizzarlo. Quindi questo è stato positivo, diciamo, non ci lamentiamo. Però per esempio i parchi del nord Europa, Germania, Olanda e Inghilterra sono prevalentemente pubblici, no? L'Oto di Berlino è dello Stato, insomma, perché la Germania vede negli giardini zoologici un ruolo sociale, cioè quello di educare le popolazioni ai temi della biodiversità, e quindi continua a sovvenzionare, diciamo, questa realtà. In Italia questo è cambiato 30 anni fa, per cui lo Stato ha detto che gli zoo non erano più, diciamo, di natura sociale, e quindi ha lasciato ai privati, diciamo, quest'onere. Ed è anche per quello, secondo me, che se guardiamo l'Italia, un'offerta zoologica che si posiziona tra Ungheria e Portogallo, abbiamo una penetrazione 6 volte inferiore a quella europea. Non tanto perché gli italiani sono più sensibili all'ambiente, anzi io credo che i tedeschi e gli olandesi insegnano la civiltà ambientale agli italiani, probabilmente, e che non c'è un'offerta zoologica sviluppata, a parte qualche zoo, diciamo, italiano che fa parte, ad esempio, dell'Unione Italiana degli Zoo degli Acquari. Oppure, se uno guarda il più grande investimento in Italia fatto, che ha avuto un gran successo, l'Acquario di Genova. Allora si vede che di fronte a un investimento serio, infrastrutturale, importante, la risposta c'è, ma bisogna investire, insomma. Avendo smesso 30 anni fa di aiutare le strutture zoologiche, cosa che invece all'estero c'è sempre stato un aiuto, quindi sono sempre migliorate negli anni, in Italia no, quindi siamo ancora uno di quei paesi che hanno delle strutture zoologiche molto antiquate e assolutamente non idonee. Volevo sapere come si è passati, diciamo, dalle caprette alla tigre. Dico io, visto che lo sapevo. Sì. Ah, okay. Ma io ho un background che non c'entra nulla con il mondo zoologico, ho lavorato tanti anni in una multinazionale americana, ho studiato all'estero, ho vissuto anche all'estero, okay? Una moglie americana, quindi insomma. E però proprio stando all'estero avevo visto che gli Stati Uniti, Nord Europa, invece era presente invece una forma, una cultura, un'attenzione verso gli zoo, ma anche c'era anche un'offerta, diciamo, che in Italia non si trovavano. Dopodiché l'idea di investire in una struttura che avesse proprio quegli standard che io avevo visto all'estero, e che oltre agli standard qualitativi era anche un discorso, diciamo, di sviluppare un business che comunque avesse un risvolto sociale importante, no? Cioè, rispetto a un parco divertimenti, una struttura zoologica, diciamo, anche se il modello di business è molto simile, no? Vendi dei biglietti fondamentalmente, però il ritorno sociale di uno zoo dal punto di vista etico, eccetera, educativo, è un fatto naturale. E quindi oggi, insomma, abbiamo dimostrato che siamo in grado di realizzare strutture che sono esteticamente ovviamente gradevoli, ma soprattutto anche per il benessere animale, perché sono i due temi da centrare, no? Non basta che siano esteticamente molto belle, ma che l'animale poi viva al meglio possibile. Quindi. A proposito, il concetto di cambiare proprio l'idea, sì, degli zoo, così, cioè che da un punto di vista anche veterinario, che utilità, che obiettivo possono avere strutture come questa rispetto ovviamente a quello che era il passato? Cioè, tanti si dicono, vabbè, perché non li lasciamo in Africa gli animali, ecco? Perché questa ancora, siccome purtroppo una volta gli animali venivano presi in natura e quindi messi poi ovviamente in quelli che erano i zoo, quindi strutture non idonee, quindi non si pensava assolutamente a quello di cui aveva bisogno un animale, proprio perché, come diceva l'ingegner Casetta, erano semplicemente luoghi di esposizione. Oggi al contrario si pensa a quello che è l'interesse e il benessere dell'animale, quindi ricostruire l'habitat non per ricordargli la natura, ma ovviamente capire di che cosa ha bisogno ogni singola specie. Quindi c'è dalla parte progettuale, in ogni piccolo dettaglio, quello appunto di cui c'è bisogno. Oggi fortunatamente, sottolineo fortunatamente, gli animali non vengono più presi in natura, quindi sono tutte quelle generazioni successive di quegli animali che un tempo venivano prese, quindi nascono già tutti negli zoo. Oggi è un po' un paradosso rispetto a come erano nati gli zoo, ma oggi sono un enorme patrimonio genetico gli zoo, perché purtroppo molte specie si trovano soltanto più negli zoo, sono a rischio di estinzione, quindi lo zoo oggi ha un ruolo, la sua missione deve essere quella di far conoscere queste specie che stanno scomparendo, educare, sensibilizzare le persone che si possono anche salvare queste specie. Come funziona il rapporto di questo parco con quegli altri parchi che ci sono in Italia, in Europa? Zoom è membro delle AZA, che è l'Associazione Europea Zoo e Acquari, che segue appunto alti standard zoologici, quindi di mantenimento degli animali, e tra un animale, tra uno zoo e l'altro c'è proprio uno scambio di animali, nel senso che ovviamente non c'è nessun tipo tipo di commercio, ma è un circuito che permette ai vari zoo di dare, diciamo, una sistemazione ai vari animali e quindi fare in modo che ci sia sempre un alto standard per questi animali. Questo poi alla fine crea un equilibrio tra tutti gli zoo e tutti i parchi. Una continua comunicazione, collaborazione tra i veterinari e un controllo, perché comunque c'è anche un controllo alla fine, perché per poter essere in questa rete bisogna rispettare gli standard. Assolutamente sì, fondamentale. Per quello che ho capito, anche una collaborazione con l'Università di Torino. La parte ricerca scientifica è proprio l'obiettivo finale, no? Cioè il concetto che questi animali in cattività devono servire per aiutare i loro cugini in natura, che in realtà hanno molti più problemi di loro in cattività, no? Se uno guarda le curve di decrescita degli animali ormai di certe specie è sbalorditiva, no? Questo proprio per bracconaggio o per distruzione degli habitat. È anche importante la formazione, ad esempio noi con l'Università di Biologia Animale e anche Veterinari, ad esempio negli ultimi 2 anni abbiamo formato 50 tirocinanti di biologia. Questi diventano dei laboratori in senso positivo. Gli ultimi 2 anni abbiamo formato circa 50 tirocinanti e la domanda di tirocini qua all'interno è sempre altissima, quindi questo è già un elemento di collegamento con l'università che non è banale. Allora grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie anche a Giuseppe Casetta, presidente onorario di Zoom Torino, al figlio Gianluigi Casetta, che è l'amministratore delegato del parco, e Valentina Isaia, biologa e responsabile del reparto educazione e gestione dei progetti di conservazione. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.